GR Europa. Un saluto da Gigi Donnelli per questo ultimo appuntamento settimanale con GR Europa, che casca, come l'avete sentito, nel pieno di una trattativa serratissima. Infatti, qual è il punto? Il bilancio in discussione, da come le cose vengono presentate, sarebbe il primo bilancio comunitario con un budget decrescente rispetto al precedente, un fatto mai accaduto nella storia dell'Unione. Si torna a parlare di spread, in questo caso è spread tra impegni, 960 miliardi, e pagamenti, 908. Uno spread che emerge dalla bozza di bilancio, appunto, 2014-2020, che il capo, che il presidente Van Rompuy, presidente del Consiglio dell'Unione, l'organo dunque che riunisce i capi di Stato e di Governo, ha presentato come da suo impegno. Immediata la reazione, soprattutto dal Parlamento, che lo ricordiamo è l'unico organo eletto della istituzione europea. Non posso immaginare che il Parlamento europeo approvi un bilancio che crea deficit, perché ciò è illegale. Questo, una voce forte, perché è quella del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, oggi a Milano per una serie di incontri. Ha aggiunto: con queste cifre, e se non ci saranno cambiamenti, il nostro gruppo politico dirà di no. Insomma, una situazione molto critica. Già in molti lamentano la vittoria degli euroscettici, cioè quella parte del sistema dei 27 che tende a indebolire la costruzione europea. Altri commenti che abbiamo raccolto invece direttamente da Roma questa mattina, al microfono di Laura Bettini, il commissario al mercato interno Michel Barnier. Allora lo sentiamo. De quoi parle-t-on quand on parle du budget européen? Di cosa parliamo quando parliamo di bilancio europeo? Parliamo di un bilancio che rappresenta appena l'1% del PIL europeo, e il 95% è usato per investimenti. Potrei riprendere quello che diceva il Presidente della Repubblica francese l'altro giorno a Strasburgo, che diceva sì alle economie, ai tagli, ma non che vadano a detrimento, a sfavore dell'economia. Cioè che non mettono a repentaglio la crescita e i bisogni dei cittadini. Questo dunque il commissario al mercato interno e ai servizi finanziari Michel Barnier, al microfono di Laura Bettini. Ma di fatto in queste ore questo è proprio il punto: per la prima volta nella storia un passo indietro minacciato e che sembra difficile poter evitare, con sullo sfondo un grande senso di incertezza per un bilancio che, lo ricordiamo, ha una previsione settennale. Si decide oggi quello che dovrà essere distribuito da oggi di fatto al 2020, insomma ore decisive. E con questo abbiamo concluso questo appuntamento di settimana, ma naturalmente tutti gli aggiornamenti continuano in GR24, in regia Roberto Scaltritti, al microfono Gigi Donnelli. Per GR Europa l'appuntamento è per lunedì. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.